4:55 sono i minuti primi, praticamente a 5 minuti dalla mezzanotte si va in onda. E sì, potevamo comodamente magari trasmettere da un luogo remoto, oppure altrettanto comodamente preventivare una replica di 25 o'clock, o ancora preparare in precedenza la trasmissione e mandarla così in registrata. Tanti sono e tante erano le alternative, le possibilità, ma a noi piace la diretta. Perciò eccoci qui a trasmettere sulle frequenze di Onda Rossa gli 87.9 della banda romana e laziale, anche perché in diretta i ringraziamenti vengono molto meglio. Vi ringraziamo a tutti e a tutte per essere intervenuti e intervenute nella tre giorni. Tre giorni di Ror, la festa dei 47 anni di compleanno qui sotto la radio alla ex SNIA. Vi ricordiamo pure che non finisce qua, perché sostenere la radio, vederci tutte e tutti insieme è importante. Dopodiché non ci si può vedere una volta all'anno saltuariamente a qualche iniziativa, è necessario sostenere la radio sempre, perciò vi ricordiamo che la modalità, il modo più conveniente, lo lasciamo aperto per parecchie settimane, qualche mese, di modo che magari quando ci avete qualche soldino in più potete provvedere, vi lasciamo tempo. Però il radioabbonamento è una cosa che va fatta. E perciò www.ondarossa.info, il sito della radio, c'è il banner fatto, disegnato da Sonno. Ci cliccate dentro, andate sulla pagina del crowdfunding e sostenete Radio Onda Rossa con quanto potete, certo. Noi consigliamo i soliti 30, 40, 20, 25, 28, 27, 32 euro. Quanto più ne avete, meglio 50 o 100 magari, ma non chiediamo tanto, perché sappiamo che le nostre difficoltà economiche sono anche le vostre difficoltà economiche in questo mondo che flippa via e che proletarizza, e è un termine quanto mai azzeccato, le vite di tutti e tutti quanti noi. Perciò appunto www.ondarossa.info, cliccate sul banner, sito anche, e capatina sul sito della radio che vi può servire anche per andare a cliccare su quanto vi siete persi durante la settimana dei podcast che la radio produce in base al palinsesto che va in onda in diretta. Se volete comunicare con noi, ondarossa@ondarossa.info, oltre ovviamente alle pagine social e ancora 25 o'clock 25 scritto al numero @ondarossa.info, se volete contattare il sottoscritto. Arcaici senza social, che bello. E infine 0649 1750, il recapito telefonico di Radio Onda Rossa da sempre, dal 1977. Se squillate, quello si illumina e noi sappiamo che ci siete e che avete gradito. È un po' questo il giochetto che si fa da tanti anni, molto tempo prima che si inventassero i like e altre amenità. Il contatto a gratis con chi ci ascolta l'abbiamo sempre privilegiato, se volete chiamarci tanto meglio. In realtà abbiamo preparato poco, quello che ci interessava era venire a ringraziarvi. Però così ci siamo andati a pescare un po' di failetti, di robette che ci sono arrivate, anche perché crediamo e pensiamo che dobbiate invece inviarci materiale. Molto ce lo procuriamo grazie ai contatti che abbiamo avuto la fortuna di acquisire in questi anni, amiche, amici, compagni e compagni che sono passati da queste parti e con cui abbiamo intrattenuto un rapporto di interscambio, quello che ci piace di più, non tanto la promozione, ma apprendere gli uni dagli altri nel frequentare le frequenze e le stanze di Onda Rossa. Queste sono cose così d'archivio, probabilmente anche coloro gli stessi che le hanno prodotte magari se le sono anche dimenticate. Spesso accade così, ma noi conserviamo tutto, per cui iniziamo con la morte questa sera. Collettivo La Morte. Iniziamo con questa domodossola, la mandiamo da capo e poi dopo ci sarà tagli, sempre La Morte, Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza, dai. Nessuno sapeva dove fosse, nessuno aveva parenti. Non possiamo aprire le finestre perché non ci sono, ma è tutto così realmente vicino, a portata di mano. Mi muovo sempre insieme a tutto il resto, non lascio niente indietro. Qui è dove sono nata, qui è dove morirò. Qui è dove sono nata, qui è dove morirò. La fine è morta, ma non di pazzia. Era diventata pericolosa, ma non violenta. Se ne stava buona buona in un angolo della stanza, ma non ci si poteva avvicinare. I miei tutta contatto decisero che avrebbero dovuto andarsene. Stop! Stop! Se la vedano a prendere lasciando sul pavimento un sentiero, i miei lo tornarono con fiori di carta e candele disegnate. Qualche volta li ho visti anche pregare, qualche volta li ho visti piangere, qualche volta li ho visti anche pregare, qualche volta li ho visti piangere, qualche volta li ho visti anche pregare, qualche volta li ho visti piangere. Mia madre nei giorni successivi mi mostrò un gioco che le aveva insegnato mia nonna. Si estraeva una lettera dell'alfabeto e si doveva pensare ad un nome, una cosa, un animale, una città, la cui iniziale doveva essere quella della lettera pescata. Lì come Domodossola, una città fantasma, dicevano i miei, viva solo in quel gioco. Nessuno sapeva dove fosse, nessuno aveva parenti o amici che venivano da lì, nessuno c'era mai stato in ferie o per lavoro, ma quando usciva la D, la città era sempre quella. fatta. L'acqua scarseggia, il paese facciamo scorta di birra. Mi inibria, mi fa compagnia. Le nuvole, la striscia bianca come facevo quando mi portavano in villeggio al mare. E il mio passo era cancellato dalle onde infrante sul bagnasciuga che mi rincorreva. Spalle a quelle immense vette non sapevo mai come tornare. Le impronte si perdevano, la sabbia meschina inghiottiva il mio percorso. Urlavo forte mamma, papà, non rispondevano mai, erano lontanissimi, lontanissimi, neanche si vedevano più. Camminavo al contrario per tornare da loro, cercando posti di riferimento e viveri. A volte funzionava, a volte erano guai. Gattonando sulla sabbia rovente nell'ora di pranzo. Spero che il dottore sia clemente e non mi tolga i carboidrati. E 87.9, questa è Radio Onda Rossa, questa è Tagli, la morte. A bere sangue dalle mie mani bianche, sono aperte, vedi? Riesco a cattenere delle altre cose oltre te. Il tempo di scordarle sedute su sedie che cinghiottono e poi chiuderle in modo così serrato che sembrano soffocare. Vuoti di ossa a perdere soltanto per un momento preciso, la via negativa del respiro. Tagli, tagli, su tagli, su tagli, ricordi il punto esatto in cui m'hai ferito, lo ricordi? Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco e non ti. Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco e non ti. Che ci portiamo dentro da quando siamo piccoli. Poca confidenza a chi non conosciamo, a chi spunta all'improvviso, a chi improvvisamente sparisce. Il nostro è un vile tramonto. Spalanca un altro squarcio nel cielo, il giorno feroce farà il suo. Avvolgerà il mio corpo ferito, lasciato a perdere sangue. E rumori, e ancora rumori, che riportano la vita. Una porta socchiusa, una porta sbattuta. Tagli, su tagli. Ricordi il punto esatto in cui m'hai ferito, lo ricordi? Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco e non ti. Colpi sopra colpi che rimangono un sentiero di ferite. Qui fa freddo all'improvviso, sono cieco e non ti. We'll be right back. come ruota di scorta. Gente nata morta e nemmeno se ne accorta. Shock me dead, I wanna be your god. We are losing class war in cambio di uno dog. È tutto un teatro, teatro del panico. Ispirazione al tuo, me la luce a fuci sadico. Lo vidi con la cava, al cinema che urlava. Demoni un benzina, ma preferisco Mario Bava. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right round, baby right round. You spin me round. Come da schema la società in rovina, agghiacciate la bobina che gira in cabina di regia. Monotematico, titolo monolitico, qualche si assassina, ritorniamo al paleolitico. Come testo sacro, di sacra simulata, a mano armata cazzo come le colta. Di massacro. Vedo gente umiliata, schiena piegata, che pur di sopravvivere si è adattata a vivere da idolata. Grido il suo Dio, per paura del vuoto. Grido il suo Dio, per paura di perdere sé. Grido il suo Dio, per paura del vuoto. Grido il suo Dio, distruggendo chi è come me. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right. I'm spreading terror, you're dead, you're alive. You spin me right round, baby right round. You spin me round. You spin me right round, baby right round. You spin me round. Right round, baby, right round. You spin me round. You spin me right round, baby, right round. You spin me round. You spin me right round, baby, right round. You spin me round. You spin me right round, baby, right round. You spin me round. You spin me right round, baby, right round. You spin me round. You spin me right. I'm ready for you. Minuti dopo la mezzanotte e abbiamo ascoltato questa volta, venendo a delle produzioni più recenti di un mese e mezzo fa all'incirca, qual più o meno, adesso non ci chiedete troppo. Non dimentichiamo, e perciò Pavel da Bologna, Anatomia del Terrore. E nel frattempo invece ritornando un po' più indietro, andarsene via. Più o meno nel tempo del Covid, ve lo ricordate? Animali, cancellare le tue impronte. E perciò tanti così. Sì. Ma sei uno stupido idiota. Uno da una parte producevano appunto, così adattandosi nel proprio isolamento. Il fiume, ma tu. Si pubblicava anche cose che erano appena incrocio, non c'era nessuno, state prodotte qualche tempo prima e così venivano disturbate. Stiamo parlando di Rock and Ritz. Disperati se vuoi. Ricordiamo, uscita questa produzione proprio i primissimi tempi dei lockdown, eccetera. È persa sul fondo. Cambia il corso del fiume Rock and Ritz da capo. Onda rossa 25 o'clock del fiume, ma tu non cambi mai. Che blusaccio.

6 minuti dopo la mezzanotte e abbiamo ascoltato Coco Pelli. E lo riascoltiamo sotto la nostra voce. Stiamo parlando di Roberto Falconieri, intervenuto qua in diretta negli studi di Onda Rossa ormai un bel po' di tempo fa. Ed è per questo che così ci abbiamo l'intenzione nelle prossime settimane, la prossima no, perché credo che non andremo in onda, di magari fare così un refresh, un aggiornamento, una chiamata in diretta per sapere come va, e così magari ci racconta anche di queste nuove sue produzioni. Nel frattempo vi diamo un po' di appunti, di note per le prossime programmazioni della radio. Sapete che ormai da qualche mese Radio Onda Rossa trasmette in DAB da Terni, dalla provincia di Terni. Abbiamo avuto modo di parlare durante la festa anche con dei giovanotti che invece venivano da Perugia e che ci chiedevano: ma quando trasmettete da Perugia pure? Dai, che ve lo consigliamo. A Perugia c'è un sacco di gente nella provincia di Perugia che vorrebbe ascoltare la radio. Beh, ci vogliono i sghei, ed è per questo che vi chiediamo di, oltre a partecipare alle iniziative della radio, di sottoscrivere per il radioabbonamento di Onda Rossa 06491750.

40 minuti dopo la mezzanotte, e qui siamo andati veramente lontani nel tempo, ma quanto invece della produzione neo folk in realtà ha saputo attingere a questa modalità di risuonare ballate della tradizione medievale bretone in questa circostanza. Stiamo parlando di un disco epico, 1975, Lioness. La Princesse Pendue, e scusate la pronuncia, perché proprio non ci sappiamo fare con questo tipo di idioma. E prendiamo questa pausa per raccontarvi di un'iniziativa sempre in là d'avvenire della radio, ma questa volta molto molto lontano, quindi almeno nei termini lontano di quando iniziamo a fare radio, in cui Radio Andarossa tutto sommato si faceva corrispondenze da fuori Roma, anche da fuori Italia talvolta, però in un mondo molto meno globalizzato di quello attuale, per cui pensare di un'iniziativa di sottoscrizione per Radio Andarossa dal Belgio sarebbe stato insomma piuttosto ardito, anche nei riguardi da parte delle persone che più guardavano al futuro. Però questo è. Serata a sostegno di Radio Andarossa dal Belgio. Tutti i proventi sono destinati a Radio Andarossa. Ingresso 3 euro, pasto 5 euro, bar a prezzi popolari. Venite col contante, gli ascoltatori di Radio Andarossa, Bruxellini, insieme a Casi UO, l'incendiarie e l'UPJB vi invitano a una serata di sostegno a Radio Andarossa. Anche quest'anno la radio più amata dell'etere romano, e non solo, ha bisogno del nostro supporto per trasmettere senza padrini né pubblicità. Da 47 anni Radio Andarossa trasmette in FM e da quest'anno anche in digitale. Il passaggio al digitale comporta costi elevati e per questo motivo da Bruxelles abbiamo deciso di rispondere positivamente alla campagna di sostegno di RORRA, a cui vi invitiamo a partecipare. In programma dalle 18 alle 19 apertura delle porte, alle 19 alle 18.30 presentazione della campagna, dalle 19.30 alle 21.30 apericena di sottoscrizione, opzione vegana inchiusa. Musica durante tutta la serata e se fa bello staremo belli in giardino. Ci vediamo venerdì 14 giugno in Rue de la Victoire 61 all'UPJB dalle ore 18. E poi c'è la descrizione di cos'è Radio Andarossa, perché ovviamente per le ascoltatrici e gli ascoltatori belgi magari è necessario fare un riassunto, gli avventori per la serata e il motivo anche per cui sostenere per radio Onda Rossa, palcoscenico al neon dopo Lioness. Sono piccolissime, non ti avvolgono ma ti salvano. Sciu- 53 minuti dopo la mezzanotte abbiamo ascoltato Sottomare, Daxaidie, e questa traccia continua ancora per molti minuti di silenzio, perché poi c'è una, quella che è la cosiddetta e così chiamata ghost track alla fine del discorso. Ma prima che vada in onda, che vada in onda il silenzio, ci mettiamo una base che poi riascolteremo, che non è affatto una base. Quindi progetto Oxide, Mille Anime 2024. Nessuna etichetta, autoproduzione, significa album del 2024 per il duo composto da Dario Arrighi, drum machine, elettronica, sintetizzatori e chitarra. Tutte le altre le ho già sprecate. E Sara Cheio Fantasmi, Fontana, voce e chitarre. Soccombo, il duo era partito come trio nella band elettro-antifolk Ciocodrama. In seguito decide di ricrearsi solo strumentalmente o quasi, e diventa il progetto No Name, dai suoni industrial noise elettroacustici, dove la configurazione del lamento, stai attento, è un cubo di Rubik, incubo 3D Kubrick, immerso nel passato, colpo inflitto nel costato, sorpasso ogni errore. Le creazioni sono basate sull'improvvisazione con sadie. Torna alla forma canzone, i risultati è un percorso evolutivo, ma anche decadente. Un po' questa la presentazione del lavoro, che non è farina nel nostro sacco, è ovviamente farina del sacco del progetto Xaide. Xaide è un personaggio della storia infinita, tanto per malattia. Andare così a raccontare meglio la vicenda. Naturalmente non è farina nel nostro sacco, e sicuramente è una di quelle produzioni scoperte e promosse dalla trasmissione che ci precede, di cui intanto andiamo a rubacchiare le produzioni che si adattano più di più anche alle nostre sonorità, e cioè prove tecniche di trasmissione, che ringraziamo per averci inviato questo lavoro. E poi ancora, dopo aver ascoltato in precedenza Anatomia del Terrore per Pavel dal Bologna, rimandiamo da capo la configurazione del lamento, ancora Pavel. Produzione anche questa recente, di qualche tempo fa, da capo, quindi Pavel. Emozionerate le ore contate tu. 59 minuti dopo la mezzanotte e andiamo con Velester. Sono venuti qui a presentare il loro 2024 avanti Cristo. Questo è Antiquarium, la prima traccia. Thank you. Radio Andorra 87.9, la modulazione di frequenza in dub da Terni. E Velester, che ci è venuto a trovare anche qua alla festa di Onda Rossa, ci ha annunciato un paio di nuove produzioni che verranno presto recapitate costi. Ci fa compagnia con un song di Davide Penta da Venus Mandula. Un lavoro incrocio di tante influenze, essenzialmente provenienti dall'Oriente. A ricordare gli appuntamenti organizzati dagli studenti della Sapienza e in mobilitazione per la Palestina, e non solo gli studenti della Sapienza, anzi una chiamata proprio a raccolta a Roma per il prossimo weekend. Mobilitazione studentesca, Assemblea Nazionale, il 1 giugno, concentramento studentesca alle ore 15 a Piazzale Aldo Moro a Roma alle ore 15. E invece il 2-3 giugno, Assemblea Studentesca Nazionale all'Università La Sapienza di Roma. Ben felici che special modo da i ragazzi e le ragazze, come meglio volete declinarli, si alzi una voce e si mobilitino i corpi. Per il massacro che si sta consumando, il genocidio, come la stessa giurisdizione internazionale ha sospettato. In una strana guerra di parole, ancora guerra di parole, di propaganda, in cui tutto sommato lo stato psichico, l'atteggiamento psichico delle persone di fronte al massacro e di fronte ai massacri venga in qualche modo pilotato, come a voler escludere l'umanità dei fatti che avvengono, a volerli manipolare. Vuole monitorare non i fatti, ma la umanità e l'atteggiamento così istintivo che si genera di fronte all'osservazione del massacro, in cui tutto viene filtrato e manipolato per invertirne il senso, il significato. importante che si morbidi e si alzi la voce proprio per testimoniare che questa guerra che si combatte sulle nostre menti, sui nostri pensieri, appunto la mobilitazione fa sì che, fa capire che questa guerra è combattuta, questa battaglia è combattuta e non ci si addormenta o addomestica affatto, non si è disposti a essere addomesticati. Alberto Falconieri ancora. Che passaggio ardito. Di nuovo quindi. I need a car. Roberto Falconieri da capo, stavolta vediamo di farla bene. Was real, but all I know is I left the place with a penny. your fuck all, and it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. But now the most charming of verandas, let's sit and watch the junkies and drunks up in stores, finding bottles sitting on the floor. I wish to Christ that I had 50 more. And it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. And it's lent me £10. I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. The boys and me are drunk and looking for you. We'll eat your friggin' entrails and we won't give a damn. Me daddy was a blue shirt and my mother a madame. My brother earned his medals at my lay in Vietnam. And it's lent me £10, I'll buy you a drink and mother wake me early in the morning. On the first day of March it was raining. It was raining worse than anything that I have ever seen. Stay on the other side of the road, cause you can never tell. We're a thrust like a gang of devils, we're the voice in a county hell. And it's lent me £10, so buy you a drink and mother wake me early in the morning. And it's lent me £10, so buy you a drink and mother wake me early in the morning. 16 minuti dopo l'una e questi erano i Pogues. E così il 30 di novembre del 2023 al Dueblino, dopo essere nato a Royal Tunbridge Wells il 25 dicembre del 1957, dicevamo il 30 novembre dello scorso anno, si è conclusa la parabola di Sean McGowan. E dobbiamo dire che fin dall'inizio, fin dalla prima settimana e poi nei mesi successivi ci eravamo riproposti. Di dedicare almeno uno spazio a questo personaggio che seppe per primo o fra i primi unire i suoni della tradizione britannica, folk, celtica, con il punk, creando un vero e proprio stile, stilema musicale che poi ha dato i suoi frutti e ha preso una propria via. Eppure su questo, dai, qualche cosa ci inventeremo. I progetti sono tanti, le idee sono molto di più delle braccia e delle possibilità di poter organizzare. Nell'ambito di 25 o'clock, degli spazi che siano soddisfacenti per noi e per voi, ce lo ripromettiamo, lo faremo più o meno, dai, dateci il tempo, i tempi di 25 o'clock che sono epici. E proprio per dire quanto possa aver seminato Sean McGowan, ci andiamo ad ascoltare Ludolphin dalla Occitania. se ma famiglio la garigo lusi prie manchanta la presa il rolo velo dal paese del cumo nari pa taulero escotao pica un riol mentre che dentur me urrade in les mendie se luter sol mure d'Inglatero ciu cuja me iuei barà terro din la culo a stufa mondari il fia mure d'Inglatero ciu cuja me iuei barà terro din la culo a stufa mondari il fia. Agacciao non si è clar, lui giunde con un colo, i giurve le trescula, dimlo gran praio curio, rescontra cavo sasun, veirerai se bute l'erbo, che spera fene in me su, ding lei go cum veggio, adessi il pare caro, lu si lei si è snegre, e a bisregna ancora. Ma se ti piace che non vuole mia più al paese è più sneghero carchiù la fai per bus da carne e cani e di posto fa smalato a nanza in lai su pepa mai che fa naufraga di una poe di Dublin ma darmo senza lei se le franci mantenì e più o me che passo sta più per tuccia mi fermete una minuto devo anche che il turbin lai gode caruno fai nanza a chi i fiobbe la memorio e smavos per chi lo vis lai gode arriviamo alla conclusione. Dopo questo canto sacro, del XIII secolo, considerato anonimo, anzi sono una serie di spartiti anonimi questi proposti da Aura Proporzio, Danze del Medioevo. Ciascun che fede si è, che sente, abbiamo iniziato tardissimo, ma finiamo. Chiedendovi di restare sintonizzati sulle frequenze di Ronda Rossa, gli 87.9 della banda romana e laziale, il DAB da Terni, nonché www.ondarossa.info il sito e lo streaming, che a chi ha orecchie per sentire gira nel web in tutto il mondo. Quindi le trasmissioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono ora e si riprende dopo aver ascoltato le repliche, le bizzarre selezioni musicali della compagna automatica sonata. Si riprende domani mattina, o meglio stamattina, fra poche ore, alle ore 8, con la lettura delle prime pagine dei giornali, la rassegna stampa e la rassegna stampa cittadina. Intorno alle 10, conclusa la rassegna stampa, si procede con i redazionali e le corrispondenze che arrivano, che ci procuriamo in radio, fino alle 12.30 circa, poi un intervallo con le repliche dei contenuti informativi, poi dalle 14 alle 15 tutta scena cinema, alle 16 Attica Blues oltre la Black Music, e poi dalle 17 alle 18.30 la Schiena del Sol. Dalle 20 alle 21.30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Radio Onda Rossa, e alle 22 chiudono i cuginetti di Apostasia, le trasmissioni in diretta della radio. Il nostro abbraccio e saluto più importante va ovviamente, come sempre, a tutte e tutti coloro che ci ascoltano da condizioni di limitata libertà personale, carcere, latitanza, clandestinità, arresti domiciliari, centri di detenzione, per migranti e le varie forme di repressione che si concretizzano nei decreti amministrativi che ci costringono nelle case, nei luoghi di lavoro. Quindi mercoledì prossimo credo che la serata sarà sguarnita, perché a quanto abbiamo capito né prove tecniche di trasmissione né 25 o'clock andrà in onda. Ci preveniamo magari predisponendo delle repliche passate. Forse no, ho detto una stupidaggine, lo sapete, mercoledì prossimo invece andrò in onda. Sì, sì, probabilmente sì, 25 o'clock, sì, vediamo, no. Il tempo e lo spazio ci sarebbe, vediamo se o forse dare modo, boh, vediamo come viene. Noi a sto punto non facciamo che alimentare il rito di 25 o'clock da oltre 22 anni, una roba del genere, che vi disturbiamo. E da tanti di più, se calcoliamo anche la parabola di Next Time, ci siamo ancora. Ce ne andiamo sotto la luna comunista. Dai, bella a tutti e a tutte, a risentirci. dreams. I'll share our dreams under a communist moon.